Letture di Radio 24. Ambientato nella Londra di metà Ottocento, I segreti del Lazarus Club, romanzo d'esordio dell'archeologo scozzese Tony Pollard, è un giallo horror nel quale i protagonisti interagiscono con personaggi storici come Florence Nightingale o Charles Darwin. Dopo il ritrovamento di una serie di cadaveri di prostitute alle quali è stato asportato il cuore, l'ispettore Tarlow decide di chiedere la consulenza del dottor George Phillips. La sua abilità nel dissezionare i cadaveri non attira solo le attenzioni della polizia, ma anche quelle dell'ingegner Brunel, che lo invita a partecipare agli incontri del Lazarus Club, un circolo esclusivo che riunisce i più importanti scienziati e inventori dell'epoca. Dovendosi assentare per qualche mese, Brunel incarica il dottore di ritirare per conto suo, presso un fabbro di nome Wilkie, alcuni ingranaggi di un oggetto misterioso che stava costruendo. Ma l'oggetto interessa anche ad altre persone che non esitano ad uccidere Wilkie per tentare di entrarne in possesso. Per evitare che finisca nelle mani di persone prive di scrupoli, sarà proprio uno dei membri del club, Lord Ockham, a trafugargli l'oggetto e a presentargli, una volta assemblato, quello che ha tutta l'aria di essere un prototipo di cuore meccanico. Era davvero qualcosa di bello, più simile al lavoro di un gioielliere che di un ingegnere. C'era il rischio che anche soltanto fissare le superfici luccicanti bastasse per accecare le mie riserve razionali sull'aspetto pratico del dispositivo. Ho letto i verbali. So cosa state tentando di costruire. Non doveva essere un segreto. Ma poi Wilkie è morto. E voi mi dite che siete stato minacciato. Qualcuno ovviamente vuole questo oggetto disperatamente. E così, eccolo. La macchina più piccola di Brunel nascosta all'interno di quella più grande. Avete detto che non è ancora completo. Quanto vi rimane da fare? Abbastanza. Tutto il montaggio delle valvole deve essere rifatto da capo e io sto ancora aspettando la consegna di alcune parti la cui fabbricazione va oltre le mie capacità. Ditemi, Ockham, cominciai io. Cosa porta un visconte da queste parti? Ockham diresse lo sguardo laddove giacevano i suoi libri. Avete mai sentito nominare Mary Shelley? La scrittrice. Era molto amica di mio nonno. Circa 50 anni fa si trovavano entrambi in Svizzera sul lago di Ginevra assieme al marito di lei, Percy Shelley. C'era anche un dottore, un certo Polidori. Ebbene, poiché non avevano nulla di meglio da fare durante un pomeriggio di pioggia, mio nonno propose a tutti di scrivere una storia a ciascuno, ma non una storia qualsiasi. Doveva essere una storia macabra, una storia di fantasmi. Mi rivolse di nuovo uno sguardo sospettoso e mi chiese: «Siete sicuro che non ne avete mai sentito parlare prima?» È una vicenda piuttosto conosciuta, sapete? Scossi la testa e gli assicurai che per me era tutta una novità. E lui, soddisfatto della mia risposta, proseguì. Beh, l'idea per la storia di Mary le venne da un sogno, o meglio, da un incubo. Gli altri rimasero così colpiti da quella storia che in seguito Mary la ampliò e ne scrisse un romanzo. Frankenstein! Esclamai trionfante, rammentando all'improvviso perché avesse riconosciuto il nome dell'autrice. Nello stesso momento ringraziai mio padre per non aver mai fatto mancare i libri nella casa della mia infanzia. Ockham annuì. L'avete mai letto? Di nuovo scossi il capo. Dovreste. Siete un anatomista, dopotutto. Tornò a rivolgere la sua attenzione ai libri sul pavimento. Tenete, prendetene questa copia. La troverete una lettura interessante. Mia madre me lo lesse la prima volta quando ero un bambino e da allora mi ossessiona. Racconta la storia di un dottore, proprio come voi, che crea un essere vivente da pezzi di cadaveri, portando la vita laddove c'era la morte. Da qui nasce il vostro interesse per il cuore meccanico. Immaginate, disse entusiasmandosi molto di più, essere in grado di restituire una vita nuova o prolungarne una vecchia attraverso l'intervento della meccanica. Il cuore sarebbe solamente l'inizio. Verrebbe un tempo in cui saremo capaci di sostituire tutti gli organi con delle controparti artificiali. Perdonate il mio pessimismo, ma non esiste alcuna speranza che questo aggeggio possa funzionare, almeno non sulla base delle nostre attuali conoscenze. Pensate, sarebbe come andare in giro con una palla di cannone incassata nel petto. Ma può questo costituire una ragione per non spianare la strada al futuro? Per non cercare di aumentare la nostra conoscenza in merito alle possibilità meccaniche e mediche? Parlava adesso con un fervore quasi evangelico, gesticolando come un predicatore nel bel mezzo di un sermone. Per questo avete fondato il Lazarus Club, per unire ingegneri e scienziati affinché si scambino idee. Ockham annuì. Beh, Così diceva Brunel, finché quel vecchio retrogrado di Brodi non evidenziò il pericolo di incorrere nelle ire della Chiesa, utilizzando nomi tanto arditi. Aveva ragione, ovviamente. Non faremmo altro che sollevare controversie, se qualcuno di vedute meno illuminate, diciamo così, venisse a sapere che stiamo cercando di interferire con la volontà di Dio, o persino di giocare a fare Dio. È questo che fate. Giocate a fare Dio. E dove, se non in quella direzione, un uomo come Brunel potrebbe indirizzare il suo genio, dopo aver trionfato in tutte le alte sfere dell'ingegneria? Comunque, in ogni caso, proseguì, man mano che si invitavano più persone, sia come membri che come lettori, in poco tempo il club venne trasformato in un luogo di discussione per ogni genere di argomento. Affascinante, ve lo concedo, ma si tratta di una versione molto edulcorata del nostro intento originario. Non sapevo se ammirare la lungimiranza di Occam o compatire il suo squilibrio mentale, ma avevo il sospetto che il punto non fosse soltanto la storia di fantasmi che sua madre gli aveva letto da bambino. Al di là delle sue ragioni, sembrava proprio che avessi trovato un alleato. E di questo fui riconoscente. Grazie alle sue rivelazioni, mi parve per la prima volta dopo settimane di non agire per conto mio, di non brancolare nel buio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal romanzo di Tony Pollard, I segreti del Lazarus Club, Gargoyle Editore, 526 pagine, €14,90.